Abbiamo sentito proclamare l'ultima parte del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, dal versetto 63 in poi. Il capitolo sesto narra la moltiplicazione dei pani e l'insegnamento di Gesù che dice: guardate che ho fatto questo miracolo non solo per sfamarvi, ma anche per farvi capire che c'è un altro cibo ed è la mia carne. E la gente non capisce e dice: è un discorso impossibile, è un discorso duro, non ti seguiamo più, non ti capiamo, e se ne vanno. È a questo punto che c'è una parte che a me dà tanta commozione dolorosa. Gesù resta con pochissimi. E allora si rivolge a questi pochi e dice: se volete andarvene anche voi, andate pure, io non vi trattengo. Mi colpisce perché io mi immagino che Gesù non lo dica con il tono che certe volte è sulle nostre bocche quando ci sentiamo falliti o traditi e abbiamo voglia di buttare tutto per aria. Basta, smetto, non c'è più, ma io rovino tutto, me ne vado. Probabilmente Gesù era addolorato anche lui, ma non reagisce in questo modo. Si rivolge agli apostoli, forse, immagino io, perché voleva essere consolato dalla fede di Pietro. E infatti Pietro non lo tradisce e gli dice: Gesù, ma dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Mi colpisce questo: dove andremo? Se lo riferisco ai nostri giorni, io resto perplesso quando certa gente, magari i nostri ragazzi di 15 anni, di 14 anni, o anche sempre più presto oggi, ti dicono: non vengo più a messa. Perché non mi dà niente? Capite? La messa non gli dà niente. Oppure persone adulte, una marea, che non vanno a messa perché non ho tempo, lavoro tutta la settimana, la domenica. O ancora più tristezza mi dà sentire bambini di quarta elementare che si confessano. E quando gli chiedi: vai a messa tutte le domeniche? Sì, quando non ho impegni. Che tristezza, capite? Un bambino di 10 anni che ti dice che se non ha impegni va a messa. E mi dico: oh, Signore Gesù, quanta gente non ti ha capito e dice: dove vuoi che andiamo? Ah, ma andiamo al supermercato, che è caldo d'inverno e che è fresco d'estate. Oggi questi sono i templi, i grandi ipermercati. Oppure vanno nelle giocherie, o vanno agli stadi, o vanno. Non hanno colto la parola di Dio. E allora dico: oh Signore Gesù, ti chiedo una grazia, manda ancora il tuo spirito in mezzo a noi, perché tanta gente che ha fatto il battesimo, che ha fatto la prima comunione, che ha fatto la cresima, tante persone che escono da famiglie di solida tradizione cristiana, ma non hanno ancora incontrato te. Sono di religione cristiana, ma non sono di fede cristiana. Signore, ti chiedo, fa che incontrino la tua tenerezza, che incontrino la tua parola e che capiscano che nessuno al mondo ha una parola come la tua. Quante parole vuote, quante parole inutili. quante parole false, quante parole bugiarde. Cari amici, chiediamo per i nostri figli, ma anche per noi, Signore, innamoraci di Te.